Il pasto nudo. Cibo tra realtà e immaginazione. Di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. I supereroi naturalmente non dovrebbero aver bisogno di mangiare. Il supereroe mangia forzatamente nella sua identità segreta, quando è un essere umano come gli altri, per socializzare e per nascondere la sua identità di supereroe. L'uomo ragno, che bisogno avrebbe di mangiare, essendo un ragno, dovrebbe mangiare mosche, ma anche la mosca, una volta trasformata nel fantastico racconto di fantascienza, sputa la sua bava purulenta e squaglia tutto quello che gli capita di commestibile e se lo rimangia come se fosse una mosca. Il supereroe, in realtà, soltanto in alcuni casi, ha un cibo particolare, un cibo che lo rende tale, il cibo del supereroe. Il vero supereroe, in realtà, è quello che riesce a mangiare tutto e non fare mai storie. Antonio Recupero, sceneggiatore e autore di fumetti, consulente per la casa editrice Tunuè. Il cibo è storicamente, soprattutto nella cultura del Mediterraneo, ma in generale in quello occidentale, un elemento caratterizzante della cultura popolare. Quindi rientra anche, ovviamente, spesso nelle caratterizzazioni dei personaggi, degli eroi, ma in generale del personaggio dell'immaginario. A volte è legato all'ambientazione, alla città. La classica cosa è che praticamente credo non esista un supereroe che ha residenza, diciamo, a New York che non sia mai stato visto mangiare un hot dog. Più che altro fa parte della scenografia. I supereroi americani sicuramente non sono tra i maggiori sostenitori del cibo sano, però alcuni di loro hanno comunque delle predilezioni per bevande che oggi sono state anche rinobilitate, se vogliamo. È il caso, ad esempio, della birra, che è un ottimo sostituto per l'idromele per quanto riguarda il mitico Thor, ma non viene disdegnata da altri personaggi, tra cui Wolverine, che dopo essere stato privato dei suoi amati sigari dalle ultime versioni politically correct dei fumetti, mantiene ancora questo piccolo vizio che, d'altronde, avendo un fattore rigenerante pressoché illimitato, si può anche permettere. Mi è venuta fame con tutte queste storie di cinghiali. Tanto più che è già passato mezzogiorno. Dal lato europeo abbiamo una cultura differente. Il cibo è elemento caratterizzante anche in maniera ironica del personaggio. Facciamo l'esempio più classico, è quello di Obelix. Obelix, nelle avventure di Asterix e Obelix, ha un'ossessione per il cibo, è obeso, viene caratterizzato in maniera tra virgolette negativa anche se simpatica, ed è ossessionato dal cibo, le sue scorpacciate di cinghiale sono leggendarie. Siediti e cominciamo immediatamente con le cibarie. Oh, che arrosto! Ed ecco un intero gregge di montoni, fa venire una fame da lupo. Omelette dei titani, è fatta con 8 dozzine di uova. Però è anche vero che un elemento particolare che non è tecnicamente un cibo ma ci si può avvicinare è la cosiddetta pozione magica, che in molti casi che è quello che dà agli altri personaggi i loro poteri. Quindi vari da Asterix agli altri della tribù gallica prendono da questa pozione la loro invincibilità che gli ha permesso di resistere all'esercito di Cesare. Hai vinto, ti preparerò la pozione magica. Nella pozione magica di Asterix abbiamo tante versioni più o meno ufficiali di alcuni ingredienti della pozione. Si parla di radici, si parla a volte in maniera un pochettino più grottesca e favolesca di scaglie della pelle di chissà quale rettile, Però c'è, è una cosa che viene citata peraltro anche nei film animati, una cosa che diverte molto, la fissazione del druido Panoramix per mettere delle fragoline di bosco, che spesso i personaggi impazziscono per trovare, e alla fine lui rivela molto bonariamente, no, ma serve soltanto a dargli un sapore più gradevole per chi la beve. Ho capito che eri il mio pargoletto quando ho visto che avevi con te una scatola di spinaci. Finalmente ho scoperto che sono di certo il papi di Braccio di Ferro. Braccio di Ferro è un personaggio creato da Segar nel 1929 per le strisce Syndicate, cioè quelle che andavano sui quotidiani o sui settimanali. Tuoni e fulmini, spinaci! Erano un sacco d'anni che non ne vedevo. Ammaina mio figlio, mostre e ciattolo marino! Tutti oramai sappiamo che la forza di Braccio di Ferro è dovuta agli spinaci, a questa famosa lattina di spinaci che era un messaggio propagandistico che probabilmente venne inserito con maggior forza dopo le prime storie. Gli spinaci, quindi alimento sano per eccellenza, contengono ferro, tutto quello che ci hanno raccontato da piccoli le nostre mamme che hanno usato Braccio di Ferro per farceli mangiare, sono l'alimento che dà una forza, una resistenza particolare a Braccio di Ferro, ma in vari episodi anche agli altri personaggi che vanno a contornare, diciamo, la famiglia di Braccio di Ferro. È un modo ironico di andare a rappresentare l'invulnerabilità, qui attraverso un alimento naturale, ma verrà ripreso in varie maniere. Pensiamo, la cosa più vicina a noi sicuramente, Super Pippo. Non questo, stupido, il ferro, l'armeria, la pistola. Un tipo sveglio non si arrende mai davanti alle prime difficoltà. Deve saperle sempre dare al momento giusto. Oh sì? Vai, beccati questo. Ci sono altri supereroi nel mondo della Disney, soprattutto provenienti dalla tradizione italiana in realtà. Però credo che l'unico con veri superpoteri e derivanti da questo cibo miracoloso sia per l'appunto Super Pippo. Super Pippo, attraverso un cibo che sicuramente tanto sano non è, cioè le arachidi, le noccioline, ottiene i suoi superpoteri per un'ora. Alla fine lo stesso meccanismo narrativo che sin dai tempi di Braccio di Ferro si porta fino a oggi, ed è un meccanismo sicuramente ironico, ma è anche utile poi ai fini narrativi per creare delle situazioni un po' particolari. Quindi quando finiscono gli effetti di questo cibo miracoloso, cosa succede, o quando non lo si ha immediatamente a disposizione. Peraltro, diciamoci la verità, la magia di queste noccioline è anche una particolare, e sono l'unico cibo che, oltre a donare dei poteri, cambia i vestiti del personaggio. Quindi questo famoso pigiama con mantellina corta di cui si veste Super Pippo appare miracolosamente dopo che vengono ingerite le arachidi. Accidenti, non faccio che girare a vuoto. Di Super Chuck non si vede nemmeno la sua dannata ombra. Al ladro! Al ladro! Il mio baracchino, i miei gelati, il mio incasso, tutto mi ha rubato, tutto, ladraccio! Diciamo che molti personaggi, soprattutto con il diventare adulto del fumetto, tra virgolette, hanno più che dal cibo si sono lasciati tentare da alcolici di varia natura. Senza allontanarci troppo da casa nostra, su Alan Ford nasce uno dei più bei super cattivi del mondo, secondo me, che è Super Chuck. Al secolo Ezechiele Bless, questo spazzino che odia la povertà di cui lui fa parte, quindi odia il sottoproletariato perché è inelegante e aspira a proteggere i ricchi dai poveri, quindi è un Robin Hood al contrario, che sostanzialmente lui ruba ai poveri per dare ai ricchi, perché lui ritiene i poveri comunque indegni e incapaci di gestire qualunque ricchezza. Finalmente! Anche noi abbiamo il frigorifero! Per la miseria ho dovuto firmare 30 kg di cambiali! Ma che sta succedendo? Che ho paura! Chi siete? Che cosa volete? Sono Super Chuck e voglio il frigorifero. Straccioni come voi non devono avere lussi! Come come fa a fare queste nefandezze? Grazie a un superpotere molto particolare. Ezechiele Bleff, per caso, un giorno si intossica con del vino avariato proveniente da lavorazioni non ben chiare, e sullo sfondo c'è lo spettro del metanolo, che in quegli anni era uno scandalo agli onori della cronaca. Beve questo Barbera avariato che prima lo fa sentire male, però invece che ucciderlo gli dona un superpotere particolare, la fiatata alcolica, cioè una fiatella alcolica, come potremmo definirla, che più che essere semplicemente sgradevole è veramente letale per chi ha la sfortuna di aspirarla. E lui si improvvisa, diventa quindi un supereroe grazie a questo potere non proprio ordinario o elegante. Il pasto nudo. Anche l'essere più inoffensivo, l'essere più innocuo, più tranquillo, meno aggressivo, può sentirsi un supereroe. È sufficiente che mangi quei cibi che sono stati sempre nella sua memoria infantile attribuibili a una maggiore vigoria. Mangia gli spinaci che ti fanno bene, diventi come Braccio di Ferro, quante infame si sono consumate alla luce di questa illusione. Mangia la carne che ti fa bene, ti fa diventare forte come Superman, anzi come Nembo Kid, come si diceva nei mistici anni del boom economico. E noi mangiavamo carne, noi mangiavamo spinaci e oggi con tristezza guardiamo il nostro colesterolo infradiciato e pensiamo che molto meglio sarebbe stato per noi mangiare da normali esseri umani. Io non mangio maccheroni, io sono americano, sono vino rosso, io non bevo vino rosso. Marmellata, queste robe da americani. Yogurt, mostarda. Ah, ecco perché gli americani vincono gli Apache, combattono gli indiani. Gli americani non bevono vino rosso, bevono il latte, apposta non si imbriacano. Che avete visto mai un americano imbriaco voi? What is an animal mostarda? Queste robe annagnano gli americani, vedi? Roba sana, sostanziosa. Mazzezzuzzerina. Dottoressa Serena Nardo, specialista in patologia clinica e nutrizione. Nella ricerca del benessere e di una situazione di salute ottimale, da sempre noi cerchiamo comunque una risposta in un alimento, in una pozione, in un decotto, una tisana, qualcosa che magari in modo rapido risolva e ci renda performanti, ottimizzi le nostre energie. Purtroppo questo non è possibile perché in realtà avere uno stato psicofisico ottimale dipende da un contesto di vita, da uno stile di vita sano, quindi non da un singolo alimento. E chiaramente negli anni si sono accumulate dicerie, leggende metropolitane, falsi miti intorno anche a tantissime abitudini, non solo alimentari ma anche proprio di vita, e questo purtroppo poi è peggiorato anche negli ultimi anni perché chiaramente l'accessibilità all'informazione medica, nutrizionale, legata per esempio ai siti internet che parlano di moltissimi di questi argomenti, rende ormai tutte le persone in grado di farsi una sorta di pseudocultura alimentare, senza dimenticare che spesso su internet scrive chiunque senza avere cognizione di causa e quindi possiamo trovare veramente argomentazioni molto fantasiose. Dottore, cosa ne pensa se io, come la Callas, ingerissi un verme solitario? Ah, che schifo, e poi per lei ci vorrebbe un cobra. Una cosa molto attuale, soprattutto negli ultimi anni, l'acqua che pulisce, che purifica, che ci rende molto più limpidi fuori e dentro, e l'acqua soprattutto senza sodio, quanto poi il sodio in realtà è presente non in milli equivalenti ma in grammi, per esempio in una fetta di prosciutto oppure in una semplice insalata. Quindi alla fine poi cercare l'acqua povera di sodio, l'acqua liscissima, proprio pura, come se sgorgasse da una sorgente, in realtà poi diventa veramente un falso mito. Ma verso le tre il Duca Conte ebbe una formidabile botta del suddetto culo, beccandosi un banco clamoroso. Che stava facendo lei? Io mi permettevo di bere un goccettino di acqua minerale. Bravo, bravo. Continui, continui. Vale, porti subito 25 bottiglie d'acqua minerale, di quella marca. Era la terribile acqua Berthier, la più gasata del mondo. In due ore Fantozzi ingurgitò 4 casse di acqua Berthier. E poi chiaramente tutto quello che ruota anche intorno, per esempio, al ruolo della carne, per esempio la carne che regala ferro, gli spinaci che regalano ferro, quindi la forza fisica connessa con l'assunzione di quantitativi di proteine. Basti pensare, per esempio, i frequentatori delle palestre che si diciamo nutrono di magari quantitativi eccessivi anche di carni magari bianche, per carità, perché prive di grasso, però sicuramente in grado, secondo loro, di aumentare la massa muscolare, quando invece la carne di per sé non è, la proteina non aumenta la massa muscolare, non è così diretto il percorso. Lei è un pugile e vuole calare di peso, vero? Sì, perché io ho detto stomaco, se fa un combattimento a Cesenatico, padrone italiano di Medi Junior, io sono 8 con il giusto a proposito di forma, se tu riuscissi a farmi portare una dose a proposito io ti ringrazio pubblicamente in televisione, se no non paga tanto, sta nel contratto. No, io non è che non pesco scritto, mi trovo tutte queste cose che stanno qua, da capo sono state chiare. Sì. E meglio passare, va, che si campa di più. Nella mia esperienza di medico nutrizionista, la mia esperienza quotidiana, devo dire che mi trovo spesso a confrontarmi con realtà di questo genere e ho visto negli anni che poi ci sono categorie di pazienti più sensibili a questo genere di informazioni, o comunque diciamo un pochino più creduloni forse. Ecco, per esempio le persone che sono molto legate al loro aspetto fisico, ecco il tipico frequentatore magari di palestra che è però fissato con il suo benessere, che deve raggiunge una forma fisica perfetta, è in genere molto sensibile alla qualità, o così perlomeno crede lui, degli alimenti, per esempio al contenuto di vitamine, e allora la ricerca degli alimenti più ricchi di vitamina C perché sono quelli in grado di dare benessere, o anche per esempio una resistenza nei confronti delle infezioni, quando poi, se in realtà bastasse ingerire quintali di arance e mandarini o vitamina C effervescente per non avere malattie infettive, diciamo sarebbe veramente bellissimo, ma non è così. Diciamo che l'ambiente immunitario è molto più influenzato da condizioni come lo stress che dalla quantità di vitamina C che assumiamo, quindi in realtà ecco ci sono poi delle categorie, per esempio le donne sicuramente sono più sensibili, un po' perché sono anche molto più legate all'aspetto fisico, quindi diciamo anche alla dieta, all'attenzione a quello che mangiano, e quindi sono quelle che più di tutte poi si nutrono letteralmente di riviste o giornali o blog sull'argomento medico, e quindi si sta sviluppando anche per certi versi una tendenza proprio direi quasi ossessiva a volte nella ricerca dell'alimento più sano, più bilanciato per assicurare poi il benessere. Un po' di pecaccia? No, grazie, sono fruttariana. Oh. Cos'è una fruttariana esattamente? Beh, noi crediamo che la frutta e le verdure abbiano dei sentimenti, e secondo noi cucinare è crudele. Mangiamo solo cose che sono già cadute dagli alberi o dai cespugli, cose in effetti già morte. Ah, è giusto. Giusto. Perciò queste carote... Sono state ammazzate, sì. Ammazzate? Oh, povere carote. Allora, non esistono alimenti buoni e cattivi, non c'è l'alimento perfetto e quindi non esiste quello, l'alimento che ti può risolvere il problema. Dottor, io non entro più nell'ascensore, nemmeno con le borse piene della spesa, siccome sto al quarto piano e mi è diventato un tribolo, qui i casi sono due, o allargano l'ascensore o mi stringo io, siccome questo è un condominio dei pidocchiosi, apposta mi sono decisa di venire qua, così loro sapio non si accoccia. Signora, io la faccio tornare una ragazzina. Davvero? E le dico di più. Ma davvero? Io le faccio fare anche l'amore. Allora più che altro ci mando mio marito. E ce lo mandi. Una signora che aveva letto in un blog per lei attendibilissimo che l'assunzione delle noci, delle nocciole, delle mandorle, insomma, era in grado di sviluppare antiossidanti, quindi di prevenire la formazione dei radicali liberi e dell'invecchiamento, così come anche il tè verde, ecco, questa donna aveva fatto poi veramente della sua alimentazione, l'aveva ridotta a un consumo di litri di tè verde, ma litri intendo dire 4 litri al giorno, 5 litri di tè verde e veramente quantitativi eccessivi di frutta secca, tanto che lei girava con la borsa con i sacchettini pieni di mandorle, noci, nocciole, e quindi che mangiava, sgranocchiava continuamente come un criceto, quindi insomma alla fine poi si arriva a dei comportamenti che sono veramente che hanno qualcosa di ossessivo, ma perché appunto l'ossessione soluzione è cercare in un alimento la soluzione, quando la soluzione è molto più complessa e per questo è più difficile, perché lo stile di vita per essere sano ha bisogno di impegno e quindi non basta il decotto magico, la pozione, perché poi in questo senso c'è sempre la ricerca in fondo poi del significato magico dietro il cibo, cibo che ti risolve il problema, e non è così. A me non mi avrebbe nemmeno guardata, però, grassa come sono. Ma che dice? Grassa lei? Ma lei è una farsa magra. E sapesse le diete che ho fatto, i sacrifici. Ma c'è più bisogno di fare sacrifici, signore. Oggi, per esempio, in Argentina c'è sta un certo dottor Darvisci, no? Che ha inventato delle pillole che sono a bomba. Cioè, sono le pillole del dottor Darvisci, che mangi quanto te pare e dimagrisci, questo è lo slogan. Per esempio, un altro cibo che viene utilizzato molto, che viene considerato veramente quasi la panacea di tutti i mali, per esempio è il miele. Allora, il miele è un alimento che noi troviamo comunemente, magari sulla tavola o in casa, un alimento sicuramente dalle molteplici caratteristiche, dalle grandi insomma virtù, però non è l'alimento che previene anche qui processi infettivi, e che siccome è naturale allora può essere consumato in quantità eccessive, perché quantitativi eccessivi di miele invece sono fortemente associati per esempio all'accumulo invece di grasso, quindi in realtà è un falso mito, e anche qui questo miele è utilizzato poi come terapia dei processi più infettivi, dei processi infettivi più vari, per esempio dal mal di gola all'herpes, quindi anche qui sempre assimilando l'idea dell'alimento l'idea della terapia, e quindi la pappa reale e i propoli e quindi tutto quello che poi appunto si associa all'idea di guarigione, quando il più delle volte la guarigione avviene perché deve avvenire, quindi perché è un processo naturale quella della restituzione poi alla situazione di partenza. 150 con 1,5 diventa Alice. Non importa, non importa, perché se lei sapesse tutte le diete che ho fatto tutte le diete a base di frutta, pompelmo, sussina, banana, mela, limone, tutte. Quella del limone mica l'ha fatta bene però. Come non l'ho fatta? 12 limoni al giorno. Ma no, quel limone là, il limone da fabbro, insomma, è la lima grossa, capito? Come spiritosa lei! Un'altra tendenza per esempio che vedo che a ondate cicliche ritorna e che per esempio in questo periodo sta andando molto di moda è per esempio l'utilizzo del limone nell'acqua. Adesso c'è stato tutta un filone diciamo pseudoscientifico, perché sempre di questo si tratta, che ha visto in alcuni alimenti una capacità di modificare il pH dell'organismo. Ora, il grado diciamo del pH dell'organismo è qualcosa che il nostro corpo modifica in maniera autonoma con dei sistemi perfetti che fanno sì che noi qualunque cosa ci succeda riusciamo sempre a mantenere un grado di equilibrio nel nostro sangue, a livello dei nostri organi. Ecco, allora la possibilità che il limone sciolto spruzzato nell'acqua possa andare a alcalinizzare o acidificare il sangue è un qualcosa che non sta né in cielo né in terra, e invece è una tendenza che io riscontro molto spesso, questa di bere questi bicchieroni di acqua con il limone dentro, che secondo questi pazienti, poi che hanno spesso informazioni anche un po' confuse, quindi magari ti danno varie spiegazioni, dovrebbe migliorare il pH, dovrebbe depurare, dovrebbe detossificare, non si capisce poi attraverso quale ragione, quindi questo è un'altra delle mode. Poi un'altra cosa molto, molto frequente che sento molto spesso per esempio è il potere dimagrante di alcuni frutti, per esempio la papaya, il gambo dell'ananas o per esempio addirittura le mele, le pere che sarebbero associate per esempio, con un consumo maggiore ad un dimagrimento. Sarà che forse se mangiamo magari più frutta magari eliminiamo qualche alimento che forse non dovremmo mangiare, quindi poi magari si dimagrisce per quel motivo, quindi spesso l'associazione tra causa-effetto, tra un fenomeno e quello che poi avviene come conseguenza è spesso diciamo un pochino pilotato un po' appunto da questa pseudocultura scientifica e un po' forse dal nostro desiderio poi di trovare magari la soluzione e il miracolo nell'alimento. Porta qua, bene. Che sono? E questi sono rigatoni con la pagliata. E la pagliata? Che cos'è? Che? Beh, meglio che non te lo dico, se no mangiali prima. Dopo te lo dico. Mangia Olimpia, assaggiali. È un piatto tipico della cucina romana. Com'è? Allora, ma forse l'esempio più clamoroso sicuramente di una fede incrollabile nelle virtù miracolose di un alimento e di un cibo fu quello di un paziente che sosteneva che consumando le animelle, che praticamente è il timo, quindi è la ghiandola timica dell'animale, del bovino, lui aveva in realtà un riscontro, diciamo, dal punto di vista proprio del vigore, del tono vitale, che lo faceva tornare giovane, lo faceva sentire giovane, in grado di fare sforzi fisici sovrumani, quindi di poter camminare, correre per ore, e per cui lui andava cercando queste animelle, tra l'altro da macellai, insomma, specializzati, quindi che le avessero, perché poi non è una cosa neanche facile da trovare, pur di avere, di assicurarsi questo potere magico. E a nulla sono valse le mie spiegazioni scientifiche, che non poteva essere così, perché questa convinzione non riuscì mai a togliergliela.